Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. 29 maggio 1985, Bruxelles, Stadio Heysel, finale di Coppa dei Campioni, Juventus-Liverpool. Il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Johnston, Nicol, ancora verso Johnston, Platini. Lungo Platini, cerca Boniek. Boniek, calcio di rigore per la Juve. Sul perfetto lungo lancio di Platini è andato via Boniek, che ha battuto in velocità Ghiletti, il quale è stato costretto a stenderlo. Rivediamo Boniek, incontenibile, Ghiletti lo bracca, Boniek piomba a terra in area di rigore, anche se forse il fallo era cominciato leggermente fuori. Comunque calcio di rigore, Platini, Juve in vantaggio, Platini, 11 minuti e 30 di gioco. Michel Platini porta in vantaggio su calcio di rigore la Juventus. La Juventus si aggiudica allo Stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. Il gol è stato segnato da Michel Platini dopo 11 minuti e 30 secondi. C'è un pezzo della mia famiglia in quel settore Z, perché Roberto era mio padre, Otello è mio nonno. Purtroppo quella sera del 29 maggio ha segnato la mia vita. 1985-2015. Ci sono 30 anni di calcio, di storia, di vita tra la maledetta notte della Heysel e oggi. In molti e in molti modi, tutti legittimi, hanno ricordato l'anniversario di quella sfida tra Juventus e Liverpool che assegnò ai bianconeri una Coppa Campioni bagnata dal sangue di 39 morti causati dalla furia degli hooligans inglesi che si abbatté sui tifosi del settore Z dello Stadio Heysel di Bruxelles. Il fatiscente palcoscenico che l'UEFA aveva scelto per quella che, allora, era forse la partita più attesa del calcio mondiale. Gli dei di Olimpia e dello sport ci chiedono oggi di riavvolgere il nastro della memoria, proprio per ricostruire il contesto intorno a quella partita e soprattutto l'eredità di quella notte e di quella strage. La Champions League di oggi è infatti figlia diretta di quella notte infame e del processo che ne seguì e che vide riconosciute le responsabilità dell'UEFA, il governo del calcio europeo, nell'organizzazione e nella gestione di quell'evento. Ma cosa rappresentava 30 anni fa quel duello tra Juventus e Liverpool per il calcio mondiale? Lo scenario nella Coppa Campioni stava in quel periodo cambiando. Sulla scia del trionfo azzurro ai mondiali dell'82, la Juventus di Trapattoni e degli assi Boniek e Platini e la Roma di Nils Liedel avevano iniziato a minacciare il predominio inglese nelle coppe europee, come ci ricorda Francesco Caremani, giornalista e scrittore, autore per Bradipo Libri del libro Heysel, le verità di una strage annunciata.

hanno fatto la tragica scoperta che invece mio padre purtroppo non ce l'aveva fatta. La partita, come ben sappiamo, si gioca malgrado la tragedia. Veder roteare quel pallone in quella notte è grottesco, ma anestetizza la paura, il dolore, lo sgomento. Siamo quasi un minuto oltre il 90esimo, porta quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio, colpo di testa di Brio, palla in fallo laterale, la Juventus vince la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 il Liverpool. Nella fase finale della serata ha ripreso il sopravvento. Il fatto sportivo e consentite che l'uomo sportivo, lo sportivo, esulti per questo successo della Juventus, che è successo del calcio italiano, anche se l'uomo conserva l'amarezza e il dolore di una serata resa luttuosa da quanto è successo prima della partita. La Juventus solleva al cielo la sua prima Coppa dei Campioni. I trionfatori vanno celebrati. E più della voce di un Bruno Pizzul provato da quanto accaduto, sono i cori che lo circondano che fanno ancora oggi raggelare. Sono stati tutti all'altezza della situazione i giocatori bianconeri. Stefano Tacconi, il portiere, ha sfoderato alcuni interventi di gran classe. Favero, chiamato prima alla marcatura di Walsh e poi a quella di Johnston, ha disimpegnato il compito senza sbavature. Cabrini ha presidiato la zona sinistra della difesa juventina con la consueta caparbietà, grinta e classe. Bonini si è rivelato il prezioso lavoratore del centrocampo che conosciamo. Brio non ha lasciato una palla che una rush, contrastandolo efficacemente sia nel gioco aereo sia nei contrasti con palla a terra. Scirea è stato il capitano di sempre, molto bravo sotto il profilo tattico, ha conferito tranquillità all'intera squadra. Le due punte, Briaschi e Rossi, pur spesso isolate in avanti, hanno fatto tutto il loro dovere, in particolare da elogiare Briaschi, che è sceso in campo in condizioni menomate, ha sofferto fino all'ultimo. Positiva la prova di Tardelli, consueto lottatore. Splendido addirittura il polacco Boniek, che ha propiziato il gol vincente di Platini su calcio di rigore, e al solito preziosa l'opera di Platini, che ha reso ancora più positiva la sua serata con alcuni lanci eccezionali. Nel finale Trapattoni ha fatto entrare in campo al posto delle due punte prima Prandelli e poi Vignola. A 30 anni di distanza, quella coppa è nella sala dei trofei della Juventus, che pure commemora i suoi tifosi caduti all'Aisella. Anche le ragioni di chi decise che la partita si giocasse lo stesso sembrano essere state comprese, come ci spiega Francesco Caremani. È stato opportuno, non dico giusto, ma opportuno giocarla, semplicemente per cercare di mantenere il più possibile l'ordine ed evitare altri scontri, altri morti. A un certo punto gli ultra della Juve scappano proprio dalla curva opposta a quella Z e cercano di andare contro quelli del Liverpool, perché hanno saputo qualcosa. Quindi è stato opportuno giocare la partita, rinforzare il servizio d'ordine per evitare altri morti, altre vittime. La partita opportunamente è stata giocata. Poi ognuno in coscienza stabilisce se quella partita, come dire, può avere o meno un senso. Per me, e lo dico da ragazzo, ero tifoso della Juventus. Oggi dico una cosa che magari può essere banale, ma oggi faccio il giornalista, non faccio il tifoso, quindi per me quella partita, insomma, non può avere senso. Ma la vera eredità di quel dramma, il vero lascito che ha dato almeno un senso alla morte di quelle 39 persone di Otello Laurentini, scomparso nel maggio scorso, è stato il processo che è seguito alla strage dell'Aisella. Sentiamo Andrea Laurentini. L'UEFA comunque è stata condannata in appello, perché questo è un passaggio importante. In primo grado l'UEFA era stata assolta, e poi comunque la sentenza dell'appello, confermata ovviamente in Cassazione, ha fatto giurisprudenza, perché da quel momento l'UEFA comunque ha la responsabilità oggettiva di tutti gli eventi che organizza. Quindi chiaramente è stata una sentenza che ha fatto storia. Tra l'altro dopo la sentenza di primo grado